costituito un loro complesso, sono le Wilson Phillips, avevano un loro repertorio, ma quest'anno hanno fatto uscire un CD che mi ha veramente loro commosso. Non hanno preso le distanze quindi dai loro genitori, no, dalla anche, musica, anche dal mondo dei loro genitori. E questo secondo me è la bellezza di questo CD, hanno ricantato le canzoni che hanno reso famose i loro genitori e c'è una distanza infinita tra l'oggi e l'ieri, tra ciò che fanno loro e ciò che facevano mamma e papà, e allo stesso tempo quella musica nelle loro voci torna così viva e così attuale. Questa è una magnifica colonna sonora, non solo per chi magari parte adesso per le vacanze, ma anche per chi torna. Ciò che lasciate non rimane là distante, ma viene è dentro via di con voi. Voi e voi lo portate qui a essere benessere. E allora adesso noi facciamo, a proposito di distanze, avviciniamoci e ci avviciniamo e entriamo ancora di più nel tema e nella parola chiave di oggi con un trailer del film che Alberto Pellai ha scelto per noi. Andiamo. Ciao papà. Vedi, la mamma si è preso la mia roba in lavanderia. Torna indietro! Torna indietro! Ho visto qualcosa! Che hai visto? Un corpo! Ciao piccolo! Ecco fatto! Non lo terremo, d'accordo? Come lo chiamerete? Freeway! Freeway! Freeway! Hai perso il cane per parlare al telefono! Che è successo? Il cane è scappato. Oh, qua c'è un cane, dai, Alberto. Il film è proprio la storia di una coppia molto molto distante, ormai si è un po' persa, che trova un cane che a sua volta si è perso, quindi un cane distante da dove deve essere, entra nella loro vita e improvvisamente però questo marito, il marito di Diane Keaton, che è Kevin Kline nel film, è un film tra l'altro che non è mai uscito al cinema, solo in DVD e procuratevelo, lo perde andando a fare una passeggiata nel bosco, sì, torna a casa e questa sembra una crisi che non farà sopravvivere la coppia, ma intorno alla ricerca del cane si ricostruisce tutta una vicenda della famiglia allargata, tutti si mettono alla caccia di Freeway e secondo me è proprio un po' il segreto, il messaggio che abbiamo, ciò che ci sembra così distante, che sembra non lì, che sembra perso per sempre, in realtà può ritornare, perché l'unica vera distanza che possiamo mettere tra noi e gli altri, tra noi e le cose che ci succedono nella vita, è la distanza del cuore, e qua invece i cuori che sembrano così lontani in mezzo a questa carambola di cose che succedono tornano vicino. Una bellissima storia d'amore, molto divertente, bravissimi gli attori, bravissimi, bravissimi come l'autore del libro che stiamo per presentare. Adesso lo so perché dentro la noia di mattine di scuola ti lasciavi cadere con tutta la sedia e col banco. Adesso so che i pastelli e la biro, vomitati sul marmo squadrato, disegnavano a caso pianeti e galassie e fili di fumo che volevi viaggiare. Ci ho messo molto a capire che tutto quello che ero, così poco o tanto, poteva finire in righe bianche oscure, parole distillate dal tempo. Ma ora so che anche tu, come me, vai cercando un paese e un missile. Mi piace così, come quando si era bambini, come un ago o una parola per pungergli il cuore. Raccontami dopo il rumore o l'amore che fa. Questa poesia che abbiamo appena ascoltata l'abbiamo letta in un libro molto interessante di cui vogliamo parlarvi oggi. Si intitola Dall'alto i problemi sembrano più piccoli, il suo autore l'ingegner Paolo Nespoli è qui in studio con noi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicole. Abbiamo con Alberto selezionato questa poesia che ha una storia. Sì, difatti non sono io l'autore di questa poesia. L'autore è Corrado Bagnoli, che è un mio compagno di scuola, un compagno di liceo, con il quale siamo cresciuti, con il quale abbiamo condiviso sostanzialmente questa idea di non sapere che cosa volevamo fare da grandi, nel cercare di capire in questi giorni. Quando lui descrive questi banchi caduti, è vero, perché nell'ultima fila davvero restavo sempre in equilibrio sulla sedia e un paio di volte questo equilibrio è mancato e sono finito per terra io, il banco e tutto il resto. E lui si ricordava di queste cose, di questa irrequietudine, di questa irrequietezza. Ed è molto bella questa cosa. Corrado Bagnoli è stato molto bravo, è ancora molto bravo. E lui, bravo, lui l'ha trovata la sua cosa. per me andare nello spazio e per lui scrivere poesie. Alberto, il libro di Paolo Nespoli entra nel nostro appuntamento settimanale perché sviluppa la parola chiave di oggi, che è distanze. Esatto, e è un libro che ci porta apparentemente molto lontano da noi nello spazio, in un viaggio che a molti appare magari come un viaggio impossibile. E invece la cosa magnifica e molto divertente di questo libro è che anche nello spazio, per gestire i piccoli e grandi problemi, per stare dentro nella complessità di ciò che succede, hai bisogno di darti strategie che non sono strategie spaziali, sono strategie molto umane, molto terrene. E di queste strategie, proprio piccole grandi lezioni di vita, parla l'astronauta Nespoli nel suo libro. Gli rilancerei proprio anche lo stimolo che c'è dentro al titolo, perché il titolo contiene davvero un po' il messaggio forte di tutto il volume. Dall'alto i problemi sembrano più piccoli. A volte riguardare da fuori e con una certa distanza ciò che apparentemente ci intrappola è una straordinaria risorsa che ci aiuta a vivere meglio. Sì, sì, sì, sicuramente sì. Da sopra si esce fuori, si vede un pochettino le cose in un modo diverso. Vedere questa terra da lassù, capire come alla fine siamo piccoli, alla fine come queste cose che ci sembrano impossibili sono cose piccoline, e dovremmo guardare forse con un occhio diverso. Dovremmo guardare per esempio a questo mondo come umanità, non più come italiani, come francesi, tedeschi, americani e cinesi, come umani che hanno questa nave, questa terra, che in viaggio nell'universo hanno questo tesoro da gestire. È un tesoro in equilibrio, un ecosistema complesso, e noi interveniamo con questo sistema un pochettino così ogni tanto. Mi piace vedere la copertina dietro, dove sostanzialmente c'è un cartello che io ho fatto vedere quando siamo partiti con lo shuttle al primo volo, e dice: guardate avanti e puntate sempre in alto, le stelle non sono poi così lontane. Quindi questo è un lato, messaggio bellissimo. Da un lato ci sono problemi, ma dall'altro questi problemi li possiamo sicuramente tutti assieme, se ci mettiamo, se lavoriamo assieme, possiamo passarli e andare avanti. A settembre si parlerà della sindrome da rientro. Ecco, sicuramente lei che rientra, quando va rientro da molto lontano, ci dia una ricettina per ripartire con un po' di sprint. Ma rientrare dallo spazio vuol dire ritornare nella vita di tutti i giorni, ritornare sotto la forza di gravità, vuol dire riadattarsi a questa cosa, vuol dire essere stato fuori, vuol dire di nuovo essere confrontato con la vita di tutti i giorni. È pesante questa cosa, ma anche lì non se ne può fare a meno. E quindi facciamo questo periodo, noi rientrando allo spazio, facciamo questo periodo di 3 settimane di forte riabilitazione fisica, mentale, psicologica, con le famiglie, con tutto il resto. Io sono arrivato a casa mia, c'erano bambini a 3 anni che mi guardavano e dicevano: ma tu non sei mio papà vive in un televisore, ci ho parlato per gli ultimi 6 mesi e lui è lì e tu c'hai le gambe, non sei il mio papà. Per cui direi di fare tesoro di quello che abbiamo imparato rilassandoci, ma riguardare la vita di tutti i giorni con occhi diversi e concentrarci nel fare le cose, ricordarci se c'è una cosa grossa che sembra impossibile, rispezzettarla e rifarla un passettino per volta. Grazie all'ingegner Nespoli, Alberto che ci ha accompagnati in questo nostro percorso, ma intanto con Alberto ci sentiamo sempre. Ci risentiremo. A domani, grazie, buona giornata da Nicoletta.